distanze corrono in preda a brame siderali, fra le celle urlano freddi oggetti inanimati che prima erano qualcuno con un vissuto ormai perduto, eppure c'eri proprio tu. A urlare il tuo tributo, ed io che ti sentivo a stento, in cerca d'un fottuto senso, malgrado non l'abbia trovato, tu vista stesa su d'un prato, fiore decomposto. Che perdeva ad ogni passo un petalo di giovinezza, un po' d'amore e d'innocenza. E rinascerai distante, anche se come non saprei dire, da quel prato ti alzerai col sole e rinascerai di luce e rinascerai distante. Per ora sei ancora qua. E fingi di non respirare. Appena sarò andato via, rinascerai col sole, rinascerai di luce. Rinascerai distante, rinascerai distante, rinascerai distante.